Benvenuti a tutti, puntata numero 26 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Proseguiamo con la ronda dei playoffs ed è tempo di finale di conference, finalmente. Ultime battute prima della fase decisiva della stagione. Si inizia a fare sul serio e conseguenzialmente aumenteranno in prospettiva le notti insonni. Adesso per davvero finiscono le scuse ed ogni partita merita di essere vista o meglio vissuta. Iniziamo guardando ad ovest. I Golden State Warriors aspettavano una tra Spurs e Houston Rockets. La serie si è di fatto però conclusa con la stoppata di Manu Ginobili su James Harden allo scadere di gara 5, perché in gara 6 una San Antonio, seppur senza Kawhi Leonard infortunato, passeggia Houston. Si chiude 114-75 con Aldridge che fa la parte del leone con 34 punti e 12 rimbalzi, coadiuvato anche da un Ball Gasol da 10 punti e 11 rimbalzi. I Rockets chiudono con 13-40 da 3 punti, dove spicca il solo Ariza con 5 triple. Pessima partita per James Harden con 2 su 11 dal campo complessivo per 10 punti totali. Trova probabilmente la sua peggior partita della stagione nell'epilogo. Houston, sorprendente nella prima vittoria della serie fuori casa, ha lottato fondamentalmente fino a gara 5, trovando una crisi di tiro del suo giocatore più rappresentativo proprio nell'epilogo stagionale, come detto. Inutile dire, anche se se ne è già discusso fino alla nausea, del pessimo secondo tempo in gara 5 di Harden e della sua orrenda gara 6. Questi ultimi spezzoni della sua stagione ovviamente non tolgono nulla ad un'annata strepitosa per il barbone e anche all'annata strepitosa di Houston stessa, che come ho già detto porterà a casa probabilmente almeno 2 premi tra gli award stagionali. È indubbio che il sesto uomo dell'anno se lo giocheranno i 2 Rockets Gordon e Lou Williams, e probabilmente solo il sorprendente Scott Brooks, che ha trasformato i Wizards dopo un avvio di stagione stentato, può insediare il titolo di coach dell'anno a Mike D'Antoni. I Rockets, con un sistema di gioco basato su un Harden regista delle operazioni, ma anche su un contorno di tiratori dal perimetro micidiali, hanno rappresentato anche nei risultati una delle sorprese della stagione. Sicuramente la perdita per infortunio di Nene li ha messi in difficoltà non poco nell'epilogo della serie con gli Spurs. Il brasiliano, fondamentale nel primo turno con OKC, rappresenta uno dei 3 giocatori che mediamente stanno in rotazione uscendo dalla panchina. Probabilmente uno degli accorgimenti eventuali da operare per completare la crescita di una squadra che già adesso aveva potenzialmente tutte le carte in regola per raggiungere la finale di conference è acquistare quantomeno un paio di fidati panchinari, anche magari giocatori d'esperienza, per allungare la lista dei giocatori impiegabili senza particolari contraccolpi nelle gare decisive. È anche vero che l'occasione persa uscendo sconfitti in casa contro una San Antonio senza Kawhi Leonard, chiudendo con solo 75 punti di squadra totali, non è cosa da poco e lascia un discreto amaro in bocca a livello appunto di epilogo stagionale. Ad est invece, prevedibile vantaggio campo sempre onorato, con Celtics e Wizards a giocarsi al TD Garden il decisivo spareggio, la prima gara 7 della tornata playoffs del 2017. Si arriva a questo punto grazie al bel 123-101 di gara 5 per i Celtics in casa, laddove un opaco Isaiah Thomas viene ben sostituito da un grandissimo Al Horford a 19 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, da un Joe Crowder da 18 punti e 8 rimbalzi e da un super Avery Bradley che chiude con 29 punti. Thomas, che comunque chiude con 18 punti seppur tirando malino, gioca una super gara 6 nella capitale, dove Boston va veramente vicinissima a chiudere la serie e raggiungere Cleveland in finale di conference. Sono 27 i punti per il piccolo grande uomo di Boston, tanti quanti ne segna Bradley, aiutati anche dai 20 di Al Horford. Dall'altra parte però i Wizards onorano pienamente il pubblico amico, lo fanno con 33 punti di Bradley Beal, 16 con 11 rimbalzi di Markieff Morris e 26 del solito John Wall, che smazza anche 8 assist, ma soprattutto segna la tripla della vittoria a una manciata di secondi dalla fine. È delirio a Washington per il 92-91 finale. Celtics ad un passo dalla quadratura del cerchio, ma tutto è rimandato a gara 7, quella di lunedì notte. In effetti è una bella partita questa gara 7, le due squadre si fronteggiano a suon di mini parziali favorevoli per tutti e 4 i quarti disponibili. Lo strappo da parte della squadra di casa arriva nel finale e inevitabilmente porta la firma del piccolo leader Isaiah Thomas e delle sue giocate. Il playmaker dei Celtics chiude il match con 29 punti e 12 assist, coadiuvato da Horford e dall'avvio offensivo importante di Avery Bradley, che poi però si ferma comunque a 9 punti ma dà tanto anche sull'altro lato del campo come al solito. I Celtics hanno 13 punti dalla panchina per Smart e una grandissima difesa, e soprattutto 26 da un clamoroso Olynyk, l'uomo più bistrattato e criticato della serie, decisivo nella sfida decisiva. Dall'altra parte, la panchina di Washington genera solo 5 punti, tutti di Bojan Bogdanovic. Scott Brooks gioca principalmente con lo starting 5, all'interno del quale pesca il solito Bradley Beal da 38 punti e 5 triple. Una grande prova di Otto Porter con 20 punti, il solito contributo di un Markieff Morris indubbiamente salito di livello in questi playoffs, malgrado avesse alcuni problemi fisici portati dalla regular season, che chiude con 18 punti e 9 rimbalzi. E i 18 punti con 11 assist e 7 rimbalzi per John Wall, seppur con 1 su 8 da dietro l'arco, al solito l'ultimissimo a gettare la spugna, seppur sbagliando tantissimo nel quarto conclusivo. Boston vince 115 a 105 e vola in finale di conference ad incontrare i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers. Un solo giorno di pausa per loro a confronto del lungo periodo di relax e probabile studio di ogni prospettiva eventuale di LeBron e compagni. Facile quindi prevedere una gara 1 a senso unico per più di una ragione, la prima delle quali può essere indubbiamente il livello di fatica accumulata dai Celtics in 7 partite anche piuttosto spigolose, seppur con il vantaggio campo del TD Garden, guadagnatosi qualificandosi come squadra numero 1 ad Est. Boston ha un roster incompleto e con molte falle, come già visto nelle due lunghissime serie giocate e vinte fino ad oggi. Tuttavia il vantaggio campo potrebbe dar loro un piccolo aiuto, riuscissero ad andare a Cleveland quantomeno sull'1-1, potremmo forse avere una serie. In caso in cui invece Cleveland vincesse le prime due case fuori casa di slancio, prepariamoci ad un probabile sweep. Al solito, registrando il mercoledì pomeriggio, gara 1 si giocherà stanotte, quindi quando ascolterete questo podcast già conoscerete il risultato della prima sfida e probabilmente avrete qualche elemento di previsione in più. Un motivo in più per festeggiare per i Celtics è avvenuto comunque nella notte italiana di martedì, grazie al pazzesco scambio di qualche anno fa che portò a Brooklyn, tra gli altri, Kevin Garnett e Paul Pierce. Boston si è aggiudicata la scelta numero 1 del prossimo draft. Una prospettiva assolutamente non male per una squadra che già così è ancora in gioco per raggiungere le finali NBA 2017. Nella lottery, la seconda scelta è toccata ai Los Angeles Lakers, mentre la terza ai Philadelphia 76ers, che possono così pescare un nuovo giovane prospetto da affiancare a Embiid e Simmons nel loro infinito processo di ristrutturazione. Parleremo più approfonditamente delle scelte del draft nelle puntate conclusive della stagione, quando conosceremo già il nome della squadra campione e degli agua stagionali, quando il draft sarà appuntamento imminente per prepararsi alla stagione dell'anno prossimo. Due paroline però sui Washington Wizards, che ci salutano qui dopo un signor campionato, soprattutto a seguito di un avvio disastroso di stagione. A mio parere è stato l'anno e anche i playoff della consacrazione definitiva per un John Wall che si è confermato leader sotto tutti i punti di vista. Credo che per i Wizards il futuro possa essere radioso, considerando che il roster è quasi pronto e i risultati lo dimostrano, a giocarsi una potenziale finale. Servirebbe un solo accorgimento, un'aggiunta mirata e decisiva, probabilmente un terzo giocatore importante da affiancare ad un backcourt che è già tra i primi della Lega, con gli intoccabili Wall e Beal. Considerando le capacità di specialisti di giocatori come Markieff Morris e Otto Porter, quest'ultimo però free agent in estate, e che comunque dalla panchina possono inserirsi giocatori di buon livello come Bogdanovic e Oubre, la soluzione più auspicabile sarebbe firmare un free agent di livello, possibilmente nel ruolo di centro a mio avviso, retrocedere Gortat al ruolo di ottima riserva e cercare quindi un bel lungo che possa ben integrarsi nelle gerarchie offensive che inevitabilmente vengono determinate da colui che potenzialmente può stare tutte le notti sopra i 20 punti e 10 assist, il numero 2, appunto John Wall. È proprio lui che in conferenza stampa nel post sconfitta rilancia l'argomento. Pur essendo apparso piuttosto provato fisicamente da una stagione giocata al massimo anche atleticamente, ha sottolineato come Washington sia arrivata corta a livello di roster nell'ultima gara. Indubbiamente la sconfitta a livello di rendimento offensivo delle due panchine, dominata 48 a 5 da quella dei Celtics, è la statistica più evidente da sottolineare. Se vogliamo parlare di fantabasket, qualche mese fa si vociferava dell'intenzione di DeMarcus Cousins di accasarsi a Washington quest'estate, riconosciuto il potenziale fallimento, secondo ovviamente il suo parere personale si dice, del progetto Twin Towers a New Orleans che lo vede al centro. Ripeto, si trattava di rumors e indubbiamente resteranno meno che tali, ma se mai questa storia avesse un minimo di fondamento e quindi di possibilità di realizzazione, ammettendo un Cousin rispettoso delle gerarchie di squadra imposte dall'amico Wall, potrebbe davvero rappresentare l'innesto decisivo per i Wizards per pensare di puntare anche a qualcosa di più rispetto al raggiungimento della finale di conference. Vediamo come si muoveranno in estate. Torniamo ad Ovest, dove la finale di conference tra Spurs e Warriors è già entrata nel vivo dopo due partite. In gara 1 San Antonio parte subito fortissimo alla Oracle Arena, nella serie che un po' tutto il mondo stava aspettando. nel primo quarto, da prima un Paul Gasol che poi si autolimiterà in seguito per problemi di falli e poi un Super Aldridge, impostano un ottimo margine di vantaggio, sancito dal super secondo quarto del solito Kawhi Leonard, rientrato malgrado i problemi alla caviglia riscontrati in gara 5 con Houston, per i quali aveva appunto saltato gara 6. Golden State perde tanti palloni e sbaglia molto al tiro. Klay Thompson è un fantasma e non andrà meglio con l'avanzare del match. Gli Spurs toccano i 25 punti di vantaggio, chiudendo il parziale del primo quarto vincenti 30 a 16 e dominando anche il secondo per 32 a 26. Sembra quasi la prima gara stagionale, quell'opening night in cui San Antonio ha dominato la Golden State alla prima ufficiale con Durant nel roster. Il secondo tempo si apre con un Curry da subito scatenato da dietro l'arco, ma gli Spurs reggono bene. Leonard mette di nuovo male la caviglia inciampando dopo un tiro nel piede di un compagno di squadra seduto in panchina. Rientra comunque subito in campo e stavolta subisce però il fallo di Zaza Pachulia, che a mio parere in modo totalmente involontario tocca il piede di Leonard che è in fase discendente dopo un tiro e di nuovo rovina fragorosamente a terra. È la seconda brutta storta alla caviglia nel giro di poche azioni. Kawhi getta così la spugna e si ritira negli spogliatoi. Il contraccolpo per San Antonio è principalmente mentale, anche se comunque dobbiamo considerare che si trova costretta ad amministrare un vantaggio consistente, però fuori casa, senza il suo miglior giocatore in campo e senza, questo a prescindere, quel Tony Parker che è fuori per il resto della stagione. Regge la baracca il solo Aldridge, coadiuvato da un'altra grandissima prestazione dell'immortale Manu Ginobili, che chiuderà la sua partita con 17 punti in 26 minuti, costretto agli straordinari anche a livello di responsabilità. La sfuriata di Golden State si abbatte sulla partita in modo inevitabile, i Warriors rosicchiano il vantaggio Spurs minuto dopo minuto, il terzo quarto lo vincono 39 a 28 e Stephen Curry è fenomenale. Il quarto periodo invece tocca a Kevin Durant proseguire, soprattutto in avvio, quella rimonta che si concretizza anche grazie ad un paio di giocate di Sean Livingston. San Antonio prova a tenere botta anche grazie a Simmons. Una volta operato il sorpasso degli Warriors ci pensa poi Aldridge a ricacciarli indietro. Il pareggio arriva per mano di una tripla di Stephen Curry dopo due errori consecutivi e altrettanti rimbalzi offensivi dei Golden State Warriors. Lo stesso Steph segna il canestro del più 3 a una manciata di secondi dalla fine. Chiude con 40 punti, 7 triple e 7 rimbalzi. San Antonio ha per la verità anche la tripla del pareggio nelle mani di Aldridge, ma dall'angolo gli va a lunga. Finisce clamorosamente 113 a 111, una partita che per capovolgimenti, intensità, imprevisti eppure drammi assomiglia più ad un film che ad una gara 1 di playoff. Io dico, se la puntata pilota dell'attesissima da me terza stagione di Twin Peaks mi lasciasse scosso, così come mi ha lasciato scosso questa gara 1, mi accontenterei non poco. Ugualmente, non vedrei l'ora di gustarmi il seguito, così come prevedo una serie potenzialmente bellissima tra queste due squadre, seppur la sfortuna di San Antonio con le condizioni fisiche di Kawhi possono determinare uno sbilanciamento di equilibri potenzialmente non da poco. Leonard chiude comunque gara 1 con 26 punti in 24 minuti, con anche 8 rimbalzi. Accanto a lui, Aldridge ne mette 28. In casa Warriors, accanto ai già detti 40 di Curry, ci sono 34 punti di Kevin Durant e 11 con 8 rimbalzi di un Pachulia importantissimo nella rimonta, anche a prescindere dalle responsabilità sull'evento del match, quello dell'infortunio a Kawhi Leonard. In conferenza stampa proprio Manu Ginobili ha detto che il risultato di questa partita è il peggiore auspicabile, principalmente per lo svolgimento della stessa. Risulta quindi più una preziosa occasione persa che una dimostrazione che battere i Warriors in casa è possibile. A suo dire avrebbe preferito perdere di 25 e presentarsi con il roster completo a provare di sorprendere Golden State in gara 2, piuttosto che perdere in una rimonta simile, rischiando di non ritrovare per la prossima partita il giocatore più rappresentativo in entrambi i lati del campo per la squadra. Ed infatti è coach Popovic a ufficializzare alla stampa il giorno seguente che Leonard non sarà in campo per gara 2. Per la verità il coach aumenta il carico in modo spropositato, prendendo posizione contro il modo di giocare abituale di Zaza Pachulia, sottolineando quanto sia il giocatore scorretto e pericoloso per l'incolumità altrui. Per la verità Leonard poche ore prima aveva dichiarato che il tutto si era svolto in una semplice azione di gioco e che non avrebbe dato responsabilità a Pachulia a livello di premeditazione. L'amarezza di San Antonio di fronte alla prospettiva di una gara 2 fuori casa e senza il proprio giocatore più rappresentativo si allinea perfettamente dalla rabbia di Popovic. Una San Antonio arrabbiata e determinata a farsi valere può essere prevedibile, ma indubbiamente la limitazione del roster e delle soluzioni in campo può essere un fattore ulteriormente decisivo. È vero che nelle stesse condizioni gli Spurs hanno giocato, vinto e chiuso convincentemente gara 6 a Houston nelle semifinali di conference, ma stavolta si tratta di scendere in campo nella casa di una delle squadre più forti della Lega, in svantaggio dopo una gara 1 persa male sotto tutti i punti di vista, soprattutto con il morale sotto i piedi. E infatti gara 2 di fatto dura appena metà del primo quarto. Golden State la domina da subito e San Antonio appare decisamente demoralizzata già in avvio. Il primo quarto si chiude 33-16 per la squadra di casa e Curry avvia con 4 triple. Chiuderà con 29 punti, 6 su 9 da 3, 7 rimbalzi, 7 assist in 31 minuti. Golden State si attesta sul 58% dal campo e quasi il 49% da 3, chiudendo con 18 triple su 37 tentativi. Dall'altra parte gli Spurs tirano con il 37% e l'unico statisticamente a salvarsi è il sostituto di Leonard in quintetto, un Jonathan Simon da 22 punti in 26 minuti. La partita finisce 136-100 per i Warriors, che se ne vanno a San Antonio con il vantaggio campo difeso ed in vantaggio quindi nella serie per 2-0. Adesso è fondamentale capire se Leonard sarà recuperato al 100% per gara 3 e di conseguenza vedere che tipo di reazione avrà San Antonio praticamente con le spalle a muro in quella che per loro è già una gara decisiva, perché sotto 3-0 sarebbe impossibile riprendersi. Io credo che chiunque ami la pallacanestro NBA, a prescindere dal tifo e dalle simpatie, non possa che augurarsi un rientro in questa serie di San Antonio, magari riportandola sul 2-2, così da poterla allungare il più possibile. Sappiamo il massimo sono 7 partite, per potersi godere quella che è di fatto la sfida tra le due squadre probabilmente più forti della Lega, o quantomeno sicuramente più forti ad Ovest, che da 2 anni aspettiamo. Staremo a vedere e continueremo a raccontare la stagione NBA con NBA Week. Lo facciamo anche sul canale YouTube di Belli 13. La settimana prossima vi comunicherò probabilmente un cambio d'orario nella messa in onda in streaming sul sito di Radio Big World, perché probabilmente abbandoneremo il giovedì come giorno e quindi anche il mercoledì pomeriggio come giorno di registrazione. Staremo a vedere, comunicheremo tutto nella prossima puntata di NBA Week, che potete ascoltare per adesso in streaming su Radio Big World alle 21.30 tutti i giovedì sera, o quantomeno fino al prossimo. Sul podcast, che potete ascoltare ovviamente dalla mattina seguente su Radio Big World nel suo SoundCloud, nel canale YouTube di Belli 13, che tutte le settimane il venerdì mattina inserisce la nostra trasmissione con le immagini da lui montate per impreziosire il mio pessimo solitamente audio, e nella nostra pagina Facebook NBA Week. Ulteriormente esiste anche un blog, lo ripeto perché tanto non c'entra quasi nessuno, che si chiama medium.com/NBA Week, dove oltre a mettere all'interno settimanalmente un blog post riassuntivo con i link per poter ascoltare questa trasmissione, inseriamo spesso anche dei video per poter rivedere le parti salienti della settimana appena passata, video più o meno tutti fatti o comunque inseriti su internet dal nostro Belli 13. Benissimo, grazie ancora per l'ascolto, un saluto da NBA Week.